CQ3 canale 10. C'è qualcuno? Sei avanti? Chi è? Roberto, da questa parte, chi sei? Non mi sento, ti sento ancora. Non ho capito chi sei. Non ho capito chi sei, qua Roberto da questa parte, chi sei tu? Non ho capito chi sei, Mario Porto Torri comunque. Sì, ciao Mario, Roberto qua da questa parte, da Sassari. Roberto, scusa, da? Da Sassari, come mai non mi ascolti bene? Sono pieno di querenda, qui c'è una popolazione che è molto bassa. Addirittura, invece, strano, pure Porto Torres dovrebbero ascoltarmi molto bene, strano. No, ma probabilmente non è neanche tanto colpa tua, è colpa mia, perché insomma, sono pieno di guerrenti, mi segui proprio al pelo, sopra sopra, ma mi sento malissimo. Io ti ascolto quasi Santiago 9, è strano che non mi ascolti. No, ma guarda che arrivi a 922, ma io sono guerrenti, che è lì, che sono veramente una manetta. Ah, guarda un po', adesso dovresti ascoltarmi un po' meglio, guarda, avevo disinserito una apparecchietto, dai. Adesso sì. No, il processore è disinserito, dai, dovresti ascoltarmi molto meglio comunque. Sì, segnale 8-9, adesso sì, radio 5, tranquilla, comprensibile. Sì, sì, io ti ascolto Santiago 8, tendente a 9, però ti porti un po' appresso di QRM, diciamo la radio non è 5, però è abbastanza comprensibile. No, ma tu arrivi bene. Disturbo oggi, cioè il QRM è altissimo, poi te lo porti appresso, perché Porto Torres sono abbastanza aperto il segnale, mi diciamo, ci siamo sentiti altre volte se non sbaglio con te, e in che zona sei di Porto Torres? Non so se mi senti meglio, ho fatto un po' di tutto, io sono proprio quello praticamente del paradigma. Che antenna utilizzi? Che tipo di antenna utilizzi e che apparato? Allora, l'antenna è una Signal Mixer, è praticamente un'antenna piccolina, con un piccolo piccolo della Sirio, è un apparato, l'apparato è di RI99. Sì, sì, ho capito. La radio è forte, però purtroppo, ripeto, c'è questo QRM altissimo, ti lo porto un po' appresso, dai. Ok. Vediamo, lasciamo un attimino di bianco se c'è qualcuno nel frattempo che vuole entrare, attenzione canale 10, chi vuole entrare avanti con la buonasera. Niente, riprendi tu Mario, avanti a te il mic. Purtroppo non ho capito, se vuoi ripetere, cioè, sto cercando di attenuarti con i filtri, questo fruscio che ti porti appresso. Diciamo, adesso ti ho attenuato, ti ascolto meglio, purtroppo ti ripeto, il segnale è abbastanza forte, però ti tira appresso questo QRM, questo fruscio, per cui è in evidenza rispetto alla modulazione. Adesso comunque ho tirato fuori, ho messo un paio di filtri, qualcosa di meglio riesco a tirarti. No, infatti, ma... Cosa c'è? Ma che il segnale è forte, sei quasi 9, questo che mi meraviglia. Ma guarda che la stessa cosa da parte mia, Tu ti vedi dietro un fruscio di QRM, quello che c'è sotto, però io la modulazione la riesco bene. Perché la radio è bella forte, se non avessi avuto è chiara, pulita, purtroppo c'è questo a fare sotto che un po' ti deteriora la qualità, però la radio si sente bella chiara, corposa, c'è cioè tutte le tonalità. Niente da eccepire, ok, qua in questa zona purtroppo c'è molto disturbo atmosferico e altre cose, elettrica, eccetera, eccetera. Tiro fuori molti segnali, però quando c'è il QRM così alto, molte volte può essere anche da parte mia, l'antenna sporca un pochettino. Che antenna hai? Io ho una Mantova 1, 5 ottavi, però ho sempre il QRM altissimo, adesso provo a installare prossimamente un'antenna più performante, diciamo, vediamo un pochettino cosa si riesce a fare. Ma tu sei forse una zona un po' nascosta rispetto a me, che zona sei di Porto Torres tu? Allora, sono praticamente un chilometro dal mare, non so se tu conosci Porto Torres, via Sassari, via Genova. Beh, se verso il mare, diciamo, cos'è per fare un orientamento, zona Ascoli Lungo, zona Satellite, zona Faro, dove sei? Magari l'antenna spara, perché di Porto Torres c'è Eugenio, lo ascolto 9 più 10 tranquillamente, non so che tipo di apparato ci abbia rispetto a te, se c'è un'antenna migliore, non lo so, perché conta sempre normalmente l'antenna, l'apparato, se non irradia l'antenna può avere tanta potenza, ma se l'antenna non riesce a irradiare, perché è strano che la radio è bella pulita, chiara, c'è questo fruscio che ti tiri il segnale, è quasi 9, ti ripeto. Sono molto in alto, sono la zona dello stadio, diciamo, la parte più alta della città, diciamo, come apertura, diciamo, sono molto in alto. E allora, ma ti vedi, almeno io come antenna, ti ripeto, non ho granché, è un'antenna buona, diciamo, per le zone così di vitro, ma quello che riguarda le lunghe di grande sicuramente non ha niente a che vedere con una città. Sì, sì, infatti l'antenna conta tantissimo, la parte fondamentale di un apparato trasmittente, prima l'antenna e poi viene tutto il resto. Ok, lasciamo un attimino ancora di bianco, vediamo se nel frattempo si avvicina qualcuno al canale 10, avanti chi vuole entrare. Questo è il canale monito, diciamo, di Sassari, normalmente siamo tutti qua sul canale 10, stranamente oggi forse ancora presto, non è entrato ancora nessuno, poi c'è qualcuno che va sul 23, ma tu sei nuovo di frequenza, perché diciamo ti ho sentito l'altro giorno di sfuggita, ma dico, non sei qua di Sassari, di queste zone, dai. Allora, io sono a Sassari, però mi è venuto molto fuori il continente, quindi sono tornato da poco, probabilmente si sente anche dalla gente, perché parlando di avere un piccolino, piccolino, sono a 10 anni, in cui sono tornato a leggere la sensazione, non si può immaginare quanti anni hanno fatto fuori. Ok. Io vabbè sono entrato non tantissimi anni fa, ho iniziato nel 2004 per qualche anno, poi avevo smesso, diciamo accendevo così santuariamente, poi adesso un po' di più, c'è un po' più di tempo libero, c'è stato il discorso del Covid, c'era qualche serata libera, diciamo ci avevi possibilità di parlare un pochettino e adesso infatti ci divertiamo, almeno speriamo di divertirci un pochettino di più. Vediamo di nuovo sul 10 se qualcuno vuole entrare, perché c'è sicuramente tanta gente che ascolta, magari qualcuno è timido, avanti chi vuole entrare. Nulla, riprenditela tu Mario. Dai, riprendo che mi saluto così, mi rimani una cosa per la gente, insomma c'è questo barattino che funziona, e poi insomma siamo ancora molto buoni, quindi io non vorrei fare dei dada. Dai, saluto Roberto, buona serata, buon proseguimento, alle prossime e anche naturalmente chi sta ascoltando. Ok, grazie, dai. Ok, ci sentiamo alle prossime, anche io qua rimango in corrixo, vediamo se qualcuno nel frattempo ha piacere di entrare, se no faccio un giro su altre bande, dai. Ok, ciao ciao di nuovo. Ciao, buonasera, alle prossime, ciao ciao. Ciao Roberto, buonasera. Ciao Gianfranco, come siete da me? Appena chiuso l'amico di Porto Torres Mario, va bene, dai, te lo faccio salutare se per caso c'è ancora Mario, ci sei ancora per salutare a Gianfranco. Sì, ma non lo sento, buonasera a Gianfranco, non mi sento però io, non ho di video, come vedo. Sì, io sono un po' coperto per Porto Torres, a te ti sento benissimo comunque. Ok, Gianfranco ti sente benissimo, purtroppo lui è in una situazione un po' sfavorevole riguardo dell'antennistica, comunque va bene, dai, ci sentiamo alle prossime Mario, avanti di nuovo a te Gianfranco. No, dell'antennistica proprio no, No, è che c'è Monteoro e niente, poi sai, dipende da apparato a apparato anche. No, no, non tu, quello di lui, lui c'ha un'antenna piccola. Ah, comunque arriva. No, no, no, benissimo, ma arriva. Allora, vabbè, un po' che non ci sentiamo. Vabbè, purtroppo c'è stato un lutto, dai, non so se l'hai saputo, diciamo, è rimasto un po' così, dai. No, negativo, mi spiace. Purtroppo sono cose che una vita capita, no? Niente, novità, nessuna bella notizia, ecco. No, vabbè, diciamo che io sono dalla settimana scorsa, dal lunedì scorso, tra l'altro è successo nel momento con cui stavo parlando, proprio di lunedì, in radio subito sono andato, ho mollato tutto, e dal lunedì scorso non ho ripreso, adesso ho detto dai, anche per staccare un po' la spina, dai, per cercare magari di drammatizzare, ho detto dai, accendiamo un pochettino, vediamo se c'è qualche amico, e vediamo un po', c'era Mario un attimino, e Mario lo ascoltavo Santiago Novo, e anche se la radio, devo dire, non era buona, intorno ai 4-3-4, perché si portava dietro del QRM. Tu stai andando alla grande, sei un segnale di 9+30 abbondante. Sì, sempre gente sotto. Guarda, sto usando un apparecchietto, per non, sempre per lasciare un po' a riposo, ma non troppo gli altri, no? Perché per parlare qua sono un po', come dire, sprecati. Preferisco usarli da altre parti. Questo è un coso, un presidente, con AMFM SSB. E sembra che si difenda abbastanza bene, le hanno messo alcune cosette interessanti. E quindi sembra che vada. Da parte mia posso dire eccellente, la modulazione è pulita, senza imperfezioni, non sento nessun difetto, a parte la modulazione anche di tutto l'ambiente circostante, tutto pulito e perfetto. Microfonia volete utilizzare? Per l'occasione il tuo microfono originale, che tutti dicono che va più che bene. Ho provato anche altri microfoni e la modulazione è sempre ottima, quindi vuol dire che hanno fatto un buon lavoro, dai. Dovrebbe essere di fascia intermedia. Poco fa stavo guardando delle cose un po', degli apparati un po' vecchiotti utilizzati dal professionale, e per sbaglio è capitato qualcuno che ne stava avendo un Alan, come si chiama? Un Alan Sattotto modificato, 800 e passa euro, me ne è scappata la risa. No, no, ma c'è gente scema fuori di testa, quelli modificati non li paghi meno di 400 euro, se poi è fatto da il pirata, non so, ci sono tutti i nomi strani, killer, CB killer, quelli sono ancora più ricercati, è come che tu ti compri una macchina firmata da non so che cosa, fatta a mano, con l'elaborazione di Abarth personale, la stessa cosa. C'è gente che impazzisce per queste cose, io dico, con quei soldi ti compri un HF, ma anche un HF buono, con 900-800 euro, quello che hai detto. No, ma per chi sa come sono fatti gli apparati, che sono strutturati in maniera progettati praticamente, non puoi variare sul campo tutti i cosi con modulatori eccetera. Certo, puoi ottenere anche la radio che va al 200%, però poi vanno a farci a quel paese tutti i parametri anche di allineamento, di disturbo eccetera. Io ne sento scelte che occupano, quando parlano occupano tre canali tranquillamente, anche con l'apparecchio selettivo, ma non perché sia colpa dell'apparato selettivo, ma proprio perché loro sono su tre canali contemporaneamente. E questi effetto del costo, super modulatori, turbo modulatori, ma tre canali a destra e tre a sinistra, devi dire, no? Per dire, uno da una parte e uno dall'altra, tre fa tre, se sei su 10 te lo senti dal 7, 8, 9, 10, e poi 10, 11, 12 e 13, cioè è una cosa spaventosa, hanno delle larghezze di banda allucinate, poi tutto, me l'ha già capitato di vederla qualcuno qua, l'aveva provato, uno di questi con l'effetto Lickott, a parte a me non piacciono. Posso capire un professionista, un camionista che deve camminare in montagna, colline, diciamo, c'ha difficoltà di farsi sentire tutto il giorno che cammina, ma non qua in Sardegna. Cioè, che cacchio dobbiamo fare? Montagne altissime non ce ne sono mai. Se vai in Liguria, che lì è tutto pieno di gole, colline, montagne, e lì gli dici dai, mi metto un doppio modulatore, magari qualche pezzettino in più mi ascolta, ma qua c'è gente che li utilizzava anche in casa qua. Sì, ma non ha senso. Oh, vabbè, costa 200 euro. Boh, sono cose veramente assurde, ma proprio se uno lo dice che ha comprato una cosa del genere, se crescono le orecchie lunghe lunghe anche la coda. Ma l'hai visto adesso, vabbè, quello stiamo parlando già di un'altra cosa, questo qua che ha costruito il Saturn, ecco, ci ha messo tutte le cose di ultima generazione, dall'analizzatore di spettro, il coso di cascata, DSP, modulometro, cioè tutte le cose possibili e immaginabili, sembra una crepe, però tipo un 7008 della ICOM, cioè a quei livelli lì, e ha fatto questo apparecchio qua, con un display, touch screen, tutto c'ha, come un apparato super evoluto HF, non so quanto possa costare, ogni tanto mette qualche video, siccome lo sta producendo, forse lo vuole produrre in piccola serie, non so cosa possa costare una cosa del genere. Sì, quello non capisce lo scopo, capito? Se per scopo così ludico va anche bene. Non sa cosa fare, si fa quello lì. Però dal punto di vista pratico, poi dell'utilizzo, insomma anche su un autocarro l'apparato deve essere un pochino robusto, perché comunque le vibrazioni ne ha, eccetera, eccetera, eccetera. È difficile capire. Poi sul versante dell'utilizzo cosa succede? Io penso che se un apparato del genere dovesse fare lo stesso lavoro che probabilmente ha fatto quello che c'hai, quello che hai preso il frontalino, no? Quello azzurro, io penso forse quanto le daremo? 5 minuti, 10 minuti di vita? Gli auguri. Questa è bella, complimenti, una bella modulazione, come piace a me, pulita, non sento nessun disturbo, come una telefonata, raramente sento modulazioni perfette, 10 e lode come dico io. Beh, a quando ce n'è uno che è anche meglio che quello che ho fabbricato io, adesso però non mi ricordo dove l'ho messo. Praticamente io non ho mai chiesto controlli, li ho chiesti solo quando stavo fabbricando qualche microfono o qualche piccolo amplificatorino, ma controlli nel senso di modulazione, questo c'è anche il monitor, tra l'altro è cosa strana per questa classe di apparecchi, c'è anche la selettiva, il coso, come si chiama, lo split, è un apparato che vendono per 10 metri, ma in realtà il CB anche omologato può essere, perché c'ha caratteristiche anche abbastanza da omologazione. Cos'è, Jackson, Ebert, ne hanno fatto almeno 10 modelli di questi prezzi. Anche di questo, della stessa cosa, è Lincoln 2 con V4. Perché di Lincoln ne hanno fatto, come hai detto tu, tante edizioni. Questo è uno di quelli vecchi a serie o nuova serie? No, nuovissima serie. Tu fidati che c'è anche un efficace sistema, c'ha lo scanner, c'ha anche questo sistema IC-Put, una cosa del genere, che effettivamente riesce anche a migliorare il rapporto segnale disturbo quando c'è molto QRM. È uno squelch automatico che nel bene e nel male fa il suo lavoro, dai. No, ma serie prezzi, erano dei baracchini, erano, non dico lo stato dell'arte, però erano, diciamo, veramente fatti bene, costruiti bene, componentistica di qualità, non era mica paragonabile a una 48, cosa del genere. La 48 apparecchio che lo sbatti a terra, ma continua a funzionare, perché è abbastanza, è tutto ferro, diciamo la componentistica diciamo è abbastanza costruita, ma la serie della Presidente sono di un'altra categoria, perché la 48 funziona bene in trasmissione, alto di cappello, se ci abbini un bel microfono si fa sentire, ma in ricezione è una grande cagata, perché satura subito e se c'è un segnale vicino, qualcuno che ti parla vicino lo senti per 10 canali, niente, io ho la 48 nuovo fiammante, c'ho il 48 plus, quello più piccolino, diciamo quel veicolare più piccolo, ma sono giocattolini. Questi President sono veramente degli ottimi apparati veicolari, tra i migliori sicuramente costruiti. Sì, probabilmente è così. Io mi ricordo quelli che erano più cari, non so se li hai conosciuti, diciamo quei microfoni in bakelite proprio di lusso, ecco, scusa dire, i Paz Simpson, li hai sentiti? Sì, certo che lo conosco, facevano una bella trazione in base, forse ce l'avevano anche Claudio, per Simpson, per Simpson, vabbè, non mi viene la parola, per Simpson. Ma il costo penso che fosse abbastanza elevato, era il topo credo a Ferrari delle CB, no? Sì, assolutamente, belli, no, ma in linea massica forse gli americani, perché hanno iniziato almeno una quindicina d'anni prima degli italiani, diciamo dell'Europa, perché loro la CB ce l'hanno dagli anni 40 mi sembra, la dopoguerra, anni 50, la è arrivata negli anni, fine anni 60 dai, ai pirati, però loro hanno 20 anni, 15 anni minimo prima di esperienza, prima di noi, capisci? C'erano delle stazioni americane, le vedevo nelle pubblicità di vecchie riviste e cose del genere, antenne spaventose, tralicci, perché non so che limiti di potenza c'erano allora, però in America c'erano degli apparati da fantascienza rispetto a quelli che abbiamo avuto noi poi li avevamo sottomarchiati, per dire prendevi un patch e poi ci mettevi un altro nome, lo chiamavi, non lo so, cacchio, gli davi un altro nome, però era sempre una base di un apparato americano, quelli semplici, poi piano piano ci sono evoluti anche noi. Sì, comunque erano apparecchi insomma diversi, anche perché c'era una diversa legislatura tra Italia e Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono stati sempre molto più larghi come cosa. L'unica cosa, negli Stati Uniti c'è una limitazione per le broadcasting, in Italia non esiste, al contrario di molte nazioni anche in Europa, di limite di potenza, tu puoi usare anche 2 megawatt volendo di potenza, ci sono radio private che hanno 400.000 watt qua in Italia, radio FM parliamo, per dire. Stati Uniti ce n'è una soltanto, perché c'è una licenza vecchia che ha 500.000 watt, una radio FM, l'unica radio americana, perché è una vecchia concessione, forse la prima radio, era la più potente radio americana dell'epoca ed è rimasta così, tutte le altre hanno potenze molto ma molto più limitate, e così le radio, come si chiama, AM, broadcasting, mentre vedo radio cinesi, radio russe, radio dei paesi dell'est, hanno, non parliamo arabe, 5 megawatt, 6 megawatt di potenza. Quello sì, però tutta la produzione è sempre in Europa, Stati Uniti e Cina, tutto l'altro sono cose un po' strane, ecco, che escono fuori. Io avevo visto anche anni fa dei baracchini, non so se ti ricordi, della Grunding, la Philips, le faceva addirittura, c'erano le autoradio e c'erano anche la CB, ma dei belli apparati della Grunding con 2 strumentini belli, anzi anche con 3 strumentini circolari belli, con tutti illuminati, sembravano tipo sito amplificatori hi-fi domestici, ed erano invece dei baracchini veramente belli, fatte tipo una tastiera sotto e poi frontale verticale, cioè in orizzontale e verticale, ma bellissimi apparati, sono molto ricercati, li faceva la Grundig, l'altra svizzera, come si chiama, che non mi ricordo come si chiama, vabbè, comunque un marchio abbastanza famoso svizzero, poi c'era qualcosa della Philips, c'era la Becker, quella che è famosissima con le autoradio di altissimo livello, almeno prima faceva delle cose fenomenali, bravo, appunto, facevano anche dei baracchini. Sì, di cose ne facevano tante. Ma perché sta succedendo questo? Aspetta, scusa un attimo, che qua non si capisce una mazza. Sì, cose strane. Ti volevo dire, tu c'hai sempre possibilità di fare ascolto comunque dappertutto. Sì, diciamo oltre 2000 no. Stavo parlando da solo, ecco un difetto trovato. Se non premo, se non premo forte, non va in trasmissione, forse c'è il coso un po' troppo arretrato, l'interruttore va stato parecchio, perché c'è quello a palmo. E qui sta parlando col muro. No, guarda, io dico che la palma ne ho diversi, ma è mio solo nella 48 l'ho lasciato, e l'M93 mi sembra che sia ancora amplificato, ma assolutamente è scomodo, io solo microfoni da tavolo, ne avrò una quindicina solo da tavolo, no, proprio non ci riesco a parlare con quelli da palma. Ma non mi ricordo dove ho messo l'adattatore, c'è l'adattatore per mettere quello da tavolo, ma fatta la pesca, chissà dove l'ho messo, che le immagini, fabbrico le cose e poi... No, volevo fare una prova se mi sentivi in un certo posto, perché sto un pochettino guardando molte radio militari, no? Che hanno queste potenze, sto guardando una vecchia che è il cucco, c'aveva anche il manuale, no? Dell'esercito, è 0.3 watt. Operava dai 30 credo ai 45 con 6 canali a valvole anni 50 da 30 mega si sta parlando? Sì, le solite frequenze loro da 30 a 45 0.3 watt portata, ma presumo con un'antenna molto lunga, 3 km. No, io già ce l'ho, con il 7000 posso andare da 25 fino a 2000, posso salire, poi se voglio scendere giù c'ho altre cose. No, io non volevo dirti passare su quella frequenza, mentre sono quelle proprio le più basse possibili, a livello quasi di onda lunga, non lo trovo, cioè allucinante. Ecco, vedi, questi sono i primi sintomi che devono preoccupare della vecchiaia, che fa le cose, poi le mette da qualche parte e non te lo ricordi più. Bisogna darci una mossa ogni tanto, dai. Cosa ci prendeva? Il magnesio per migliorare la memoria, che cos'era? Le carote, cosa si prendeva? Ma quando rompevi così le scatole, io penso che potevi prendere solo un colpo in testa. Un colpo di capo. Allora, adesso, visto che tu sei appassionato, certo, da questo tipo, non so se te l'ho detto due domeniche, non questa domenica, domenica passata, non so se c'eri, te lo ripeto comunque. Questo qua è appassionato tutto di strumentazioni, di apparecchiature navali, professioni navali e militari, soprattutto di vecchie cose, anche di forza dell'ordine, cosa. C'ha una casa, lui vive in questa casa senza corrente elettrica normale, vive alimentato, autoalimentato, eccetera. Tu vede, tu cosa c'ha di radio questo tipo dentro? Tra l'altro mi ha dato anche qualcosa, quello che ti ho detto, c'era il radiogoniometro, mi ho preso con l'antenna per il radiogoniometro, però per le V, queste sono quattro verticali messe insieme con un circuito elettronico. Ho guardato cosa costa su internet, $2,900, $2,500, è un sistema, un'antenna attiva che funziona, anziché farla motorizzata, dentro c'è un sistema elettronico che fa girare i dipoli elettricamente e ti dice la posizione di radiazione di quella stazione lì. Ce l'ho con le V e devo mettere il translate, il convertitore di frequenza su quello che ho io già di radiogoniometro, perché l'antenna sua non l'ho trovata, la sua proprio con le bande da quelle, diciamo, per gli HF, e c'è delle apparecchiature, ma ti metti le mani in testa, poi c'è un vecchio sistema di ascolto in marsate, peccato che di uno non c'ha solo l'interfaccia, però manca non va a disco, adesso non mi ricordo cosa cavolo era, perché c'è un affare dove ci sono dei dischetti, e mi ha fatto la prova di stampa, c'è ancora quelle stampanti vecchie a coso, tipo il fax, come si chiamano, a induzione, come vengono dette? Vabbè, come vengono dette, io vi faccio un saluto e mi ritiro per deliberare. Ciao Roberto e ciao Gianfranco. E a lui, ciao Claudio, hai sentito, vai Gianfranco. Ciao Claudio, delibera. Ti ho deliberato, sto spegnendo, sono entrato a salutare e basta, ciao. E a ciao Claudio, hai sentito. Ciao, alle prossime, prepara la cena. No, già c'è moglie, le sta preparando, guardo pure di TV. Ricordate, Roberto, che la radio più bella è lo so, tu quella lì non ti auguro male, però se devi darla a qualcuno, io sono prenotato. Il rapporto magico che abbiamo fatto, già lo sai, è tornata come era prima, sono contentissimo di questo 430, adesso c'è il filtro, c'è tutto, anche per la M, non le manca niente. Va bene, proseguite pure, è un piacere ascoltarvi, ciao! Ciao Claudia, prova a cambiare il microfono, quello che ti dicevo, per vedere se c'è molta differenza. Passo all'autocostruito. Sono qua. Claudio, comunque io mi riferivo al DAC. Il DAC non c'è problema, è sempre qua. Anzi, devo accenderlo perché è sempre spento. Io le metto all'alimentatore a 110, il trasformatore, e lo tengo acceso. Se no fa la fine l'altra volta, e sono andato a accenderlo e non c'era più di trasmissione, non c'era più valvola. Va bene, è qua Roberto, lo sai, non ci sono problemi, ciao. Cioè, questa è una bomba, dai, qua stiamo parlando di due cose diverse, no? Io parlavo di radio vintage, perché stiamo parlando di 430, una bomba, te l'ho detto l'altro giorno, questo è spettacolare. La modulazione, probabilmente è una delle migliori che hai avuto, di quelle che ho ascoltato io, almeno a memoria, questa è la più bella di tutte. Sì, ascoltandomi anche con l'altra, effettivamente risulta, forse perché gli ha fatto quei due ritocchi il tecnico che tu ben conosci, gli ha messo il filtro, quindi l'ha allineata bene, la modulazione è spettacolare, lo so. Poi c'è una bellissima ricezione, io ascolto molto in 40, in 80, ma c'è una ricezione favolosa, veramente. Ce li ha tutti i filtri. Adesso ce li ha tutti, mancava solo quello della M, li abbiamo messo. Anzi, gliel'ha messo. Va bene, dai, Robby, un abbraccio, noi ci siamo visti anche di persona. Ciao Gianfranco, fatevi buon consiglio e io chiudo. Ciao ciao. Quando vuoi già sai dove trovarmi. Vai Gianfranco. Sì, ciao Claudio, ancora. Robby, guarda, questa come ti appare? Anzi, forse può avere qualche innesco, perché mi sono lasciato, ecco, forse così va meglio, senza inneschi. Ammesso che ci fosse. Ma io inneschi non ne ho sentito per niente. A orecchio, senza guardarti da nessuna parte, non ho notato grosse differenze. Ottime tutti e due, le modulazioni pulite, senza imperfezioni. Se poi vuoi cose più precise, dovrei accendere la radio, altre cose, e vedere come il livello microfonico e anche la pulizia del segnale. Però ti dico, da parte mia, a orecchio, ti sto ascoltando perfettamente. Sì, questo è autocostruito, dovrebbe essere un pochettino più compresso rispetto all'altro, che è proprio normale, e il tasto perlomeno è premibile, anche se pesa un raio questo microfono da palmo sempre. Guarda, forse, ma proprio per essere proprio pignoli, questo c'ha un pochettino più di acuti, ma ti ripeto, stiamo parlando di cose impercettibili normalmente, però sono perfette da parte mia, 10 tutti e due. Sì, passo a quello da tavolo, che mi si sta cancanando la mano. Adesso, ma prova, così ti dico anche a livello microfonico, eri più 8 dB qua. Accidenti, ci sono uscito pure sul 9 a forza di girare questo affare. Ti dicevo che non si dovrebbe dire, ma non trovo quel buco. Allora Gianfra, questo leggermente più alto microfonia a livello di livello microfonico, un paio di dB, 3-4 dB di qua c'è di differenza, 3 dB dai, di differenza rispetto all'altro. Riprova a parlare e vediamo il resto. Sì, questo è quello solito da tavolo, che però mi sbaglio sempre, stacco da lì che mi sfascio l'altro apparecchio, che sono duri da estrarre questi connettori, che è veramente una cosa allucinante. Che sono a distanza circa 20 cm, anche qualcosa di più, e dovrebbe andare. Ma scusa un attimino, prima c'avevi un altro microfono? Sì, prima c'avevo uno autocostruito, all'inizio del questo c'avevo quello originale, quindi ne ho provato tre, questo è l'unico che ho provato che è da tavolo. Infatti stavo dicendo questo, pensavo fosse il palmare, è un po' più forte dell'altro, e questo non è l'autocostruito. No, questo è comprato. Questo c'hai 3 dB in più di livello microfonico rispetto all'altro. La modulazione, prova a parlare. Allora, da circa 25-30 cm, 1, 2, 3, 4, prova tecnica di trasmissione, ma anzi, vediamo se aumentando, ecco, aumentato anche un po' il mic gain, se succede qualcosa, ammesso che sia percettibile. Allora, come è ventato Michigan, si sente appena appena un soffio sotto, probabilmente qualche vento o qualcosa. No. Ma questo vento non è, perché non ha vento, però lo diminuisco un pochino, vediamo un po'. Forse è meglio lasciarlo così. Prova a non parlare, tieni solo premuto. Io sento un segnale da 1000 ai 2000, una specie di, non dico soffio, però qualcosa è in movimento, qualche cosa che sta muovendosi sotto, tipo una ventolina, computer, cosa c'è vicino? C'è lo scanner e forse c'è anche il monitor, è per quello magari. Io sento un segnale dai 1000 ai 2000, leggero, ti presenta a livello proprio minimo, perché forse è amplificato un po' di più e si sente sotto, se no è impercettibile. Sì, aspetta che guarda se c'ho il monitor inserito. Com'era? Ma è come no. Ma scusa, hai cambiato radio oppure? Sì, questo è il presidente. Dico, quello di prima non è, hai preso totalmente un'altra radio? No, la radio è sempre la stessa, cambiano solo i microfoni, perché volevo un po' vedere se andava la predisposizione, perché purtroppo non c'è un attacco su pin, capito? Lo potrei cambiare anche facilmente, però poi fare a pezzi l'apparecchio e poi rimontarlo. Essendo un baracchino non vale la pena, capito? No. Questo rispetto all'altro alza un po' il livello microfonico, ho detto circa 3 dB, e si sente sotto fondo amplificando un qualche cosa, che potrebbe essere una ventola o qualche apparecchietto vicino, una lampadina o qualcosa. Sì, c'è uno scanner un po' vicino. Non posso neanche allontanare perché c'è anche il coso. Posso spegnere qua, ma tanto al LED non mi fa disturbi. Niente, tutto qua. Stavo parlando di piccolezze impercettibili, se te lo ascolti con qualunque altra cosa neanche te ne accorgi, sto facendo il pignolo esagerato, diciamo, dai, è perfetta, la modulazione è bellissima, niente da dire, come ho detto prima, solo se tu togli la portante io sento basso sotto questo leggero soffio, chiamiamolo soffio, dai 1000 ai 2000 Hz. Può darsi, perché ripeto, c'è anche uno scanner vicino. Può darsi che faccia anche qualche rumoretto ogni tanto. E poi niente. Devo fare un'altra prova con l'altro apparecchio. Ma anche non c'è la finestra aperta, perché se fossi stata in macchina ti diceva guarda il finestrino. Sì, addirittura. No, sembra quando stai camminando in macchina c'è un poetettino che sta telefonando e si sente appena di soffio. È una cosa impercettibile sotto, ma ti ripeto, è proprio per essere super pignolo, non dà assolutamente fastidio, è perfetta. Ma basta abbassare ancora qua. Ho abbassato ulteriormente, c'è sempre, ti lascio un po' di portante. Sì, si è abbassato di un 6-7 dB di cosa, ma ripeto non fa niente, va benissimo come era prima, probabilmente il microfono è un po' più amplificato rispetto all'altro, tira fuori un po' di elementi circostanti, diciamo. Sì, ma sembra per sentire un break a livello sotto QRM. Avanti il break, ti vuole entrare sul canale 10, c'è qualcosa nel fondo, ma c'è QRM altissimo, Santiago 6-7, che si sente qualcuno parlare, però non capisco quello che dici. Propagazione. Vabbè, il segnale è molto più forte sicuramente dell'altro che usavo prima, che andava con 2 watt, però insomma, ecco, dato che ci si posso fare un'altra prova. A questo c'ha potenza fissa o regolabile? No, regolabile da 1 circa. Adesso passo, infatti, da 1 a poco più, va da 1,5. Non vorrebbe guadagnare, sono anche rauco, non vorrebbe guadagnare anche la radio in termini di potenza. Adesso aumento, oltre non va, ma superi i 9,30, diciamo quasi 9,35 con la massima potenza, nell'altro caso 9,25. Allora, guarda, proviamo. Ecco. Adesso ho cambiato qualche cosina. Adesso sei completamente saturo, sei 9 più 40. Saturo nel senso ordinario? Sì, sì, sì, chiuso completamente saturo. Sì, c'ha ragione, guarda. Forse sta andando male. Adesso ho migliorato. No, sei chiuso completamente di modulazione, sta saturando. Ecco. Non si vede quando c'è qualche cosa. Adesso dovrebbe essere al minimo la radio. Sì, c'è bassissimo di radio adesso. Vediamo, sono al limite del funzionamento ora. Prova. E se 4 dB di più 4 dB devi salire almeno a 8, aumenta. Ma se mi dici che diventa una tamburlana magari. No, proprio chiuso, come quando ti tappi il naso, quando perdi, non lo so come descriverlo, chiuso completamente, toglie tutte le tonalità e non hai niente, come quando sei raffreddato non senti niente. Già sono raffreddato. Non tu, parlo quando tu hai le orecchie tappate, ti capita molte volte che ti senti le orecchie tappate, è uguale, la stessa sensazione. Dai, è così. Vabbè. Adesso sono ripassato con i due classici. Nulla. Ok, ieri sera ero acceso un attimino, ieri notte, anzi, sui 40 metri ho ascoltato, Orifrano arrivava a 9 più 10, Corso Paese nell'Ogliastra, non mi ricordo come cavolo si chiamava, un paesino sperduto nell'Ogliastra, tutti e due li sentivo veramente furti, sono rimasto a bocca aperta con la Mantova. Ma qua in 27? No, i 40 metri, questo tipo Jonathan si chiamava, l'altro mi sembra Mario, uno era nell'Ogliastra, proprio un paesino, non mi ricordo come si chiama, adesso non mi viene in mente, l'altro proprio era Orizzano, attaccato a Orizzano, pochissimi chilometri da Orizzano, ma arrivava una bomba tutti e due, questo era Jonathan, c'aveva un 7.301 e l'altro c'aveva un 7.007. Ho capito. Sì, guarda, c'è una propagazione micidiale in questo periodo. Sì, ma mi ha meravigliato, cioè, a sentire in 40 metri in diretta, dico, dalla Sardegna, ovviamente ascolto tutta l'Italia, però sentire Euristano, cacchio. Vuol dire che c'era un'antenna messa molto in basso. Ci sono rimasto a bocca aperta, c'aveva una V invertita e l'altra non so che antenna c'aveva, neanche grandissima come antenna. Sono rimasto a bocca aperta, infatti, a sentire l'Ogliastra è completamente chiusa, perché già lì non arrivano i telefonini, figurati arrivare il coso. Che strano, infatti la propagazione normalmente è molto più lunga, cioè ascoltato il contest. L'altro giorno c'era un contest in 27, a 27 e 115 da Guadalajara, c'era questo tipo, che probabilmente era un radioamatore, stava facendo un diploma di non so che cosa, ha collegato più di 100 persone, c'era anche Walter un attimino, l'ho sentito, ha collegato più di 100 persone questo qua, uno dietro l'altro. Adesso sentirei il rumore, è l'altra radio che è accesa, un tentativo di capire, allora, l'antenna c'è. Devo fare queste prove perché sono un pochettino rincoglionito, non lo dico io. Più una volta vado a trasmettere senza antenna, perché il comunicatore non è regolato, è anche vero che è difficile ricordare, io ne ho quattro commutatori, però ogni tanto sai, parte il neurone che mi dà tutta la memoria. Io ho l'MT3000 che c'ha tre commutazioni, dall'MT3000 passo a un altro commutatore con altri tre commutatori, che poi c'è un'altra uscita che porta a un altro gruppo di commutatori, è tutto un giro tra, perché c'erano tutte frontali le radio, tutte, ogni radio io la posso far funzionare indipendentemente. Ma a volte mi capita anche con le V e con le U, meno male c'ho apparecchi che reggono anche senza antenna per parecchio, se no questo pensavo quello che c'avevo all'inizio, no? Che era bellissimo l'apparecchio, non mi ricordo il nome, era un tribanda della Kenwood, quello che c'era tre manopoline addirittura, direi figurati, mi è partito il finale che era un quadrato grande, mi è partito il modulo finale mentre stavo modulando, che era il vero, di colpo, puff, sparito, e l'antenna funzionava bene, quindi tutto regolare, nessuna stazionaria, figurati, ce l'ho preso qui senza coso lì, senza antenna. Ma io ho notato una cosa, questi apparati anche di grandi livelli, non so, dell'ultimissima generazione, non lo so, gli amplificatori già ce l'hanno la protezione, però rispetto a un apparecchio Hi-Fi, per dire un amplificatore domestico, se tu lo metti senza casse, ci sono quelli, diciamo, di un certo tipo, non hanno le protezioni, ma ormai sono tutti con le protezioni, per cui assolutamente non vai in modulazione, come per dire, quando vai in banda laterale, se non hai coso, microfono, tu schiacci il portante, dall'apparecchio non esce, deve per forza esserci la modulazione, però molti apparecchi si sono bruciati così, uno infatti che mi aveva dato a me tempo fa, un amico radioamatore, la stessa cosa, aveva bruciato in macchina, dico ma è possibile, non c'è un sistema di protezione quando c'è il rosso alto, nulla, l'ha bruciato così, subito in pochi minuti. Purtroppo è così, e soprattutto quando si sale di frequenza, non sui 1000, 1200 eccetera, nel corso negli apparati trasmittenti, parliamo quelli che c'avevo io nell'altra radio, abbiamo bruciato più di uno di coso, cacchio, che non avevano protezione né niente, parliamo trasmettitori FM, stiamo parlando lì, in diretta, proprio acceso, è esploso, appena cambiato, infatti era stato un problemino, lì quelli sono delicatissimi, adesso i nuovi magari hanno delle protezioni, non lo so, ma quelli che ho avuto io erano tutti così, senza nessuna protezione, se c'era un qualche cosa all'antenna, subito, partivano. E questi qua mi meravigliano, questi apparati qua, il dalla 48 che un giocattolino ti dice, ti si accende con la luce rossetta, rossa, che c'è, ti dice che c'è il rosso alto, però trasmette lo stesso, però non hanno un sistema di protezione, almeno quelli che ho visto io, niente di efficacia. Guarda, dunque, frequenza ha segnato a noi 135.7 e 100 a 137.8, quindi pochissimo, potenza massima 1 watt hertz, qua se arrivo a qualche milliwatt anche troppo, non riesco neanche a girare, aspetta, devo cambiare, ti volevo dire, puoi fare ascolto di lì, che ne so, a 136, dai, per essere proprio pignoli. No, me la frequenza è esatta, accendo il ricevitore e ci vado, e rimango acceso qua in 27 naturalmente. Sì, sempre solo per prova, in AM mi basta, perché non ho la pistola delle destre trasmesse. Ridammi la frequenza, 135, così è detto. 136.000 in AM. Un attimino, sei importante. Sì, sì, 0.136, quindi in, al di sotto del mega. Mi hai detto? Aspetta un po' del cacchio, stai parlando? No, guarda, ti tengo un paio di colpi. È successo? Niente? Hai parlato, ti ho sentito per un attimo. Sì, aspetta, aspetta un attimino che riprovo. Guarda, riprovo mentre parlo anche qua. Anzi, qua lo stacco, se non ci capisce un tubo. Guardami il segnale, anche sto andando via. Ricevuto? Forse non mi ricevi, anche perché c'è un disturbo S7 addirittura. Ma hai parlato, sentivo qualcosa sotto, basso, va a Santiago 1. Stiamo parlando di milliwatt. Anzi, aspetta, metto V a 100 milliwatt, vediamo un po' se riesco a cavarne il pelo, quando devo bruciare qualcosa, perché ovviamente avrò 9 di stazionarie almeno. Guarda, faccio una prova di nuovo. Niente. Hai parlato? Sì, ma mi sa che non esce. Troppo bassa. scende molto sotto, però più sotto di così non si può. 136.00 modulazione AM, così? Sì, se vuoi posso anche provare la cosa di